Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, l'unico format radiofonico che vi porta le voci, i fatti e le opinioni della galassia animalista, antispecista e vegan. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Puntata numero 399, che dedichiamo a Basi, la femmina di panda più anziana del mondo, arrivata, pensate, alla veneranda età di 37 anni, circa il doppio dell'età media raggiunta solitamente da questi animali. Mascotte dei giochi asiatici di Pechino del 1990, l'avevano addestrata per esibirsi come ciclista, giocatrice di basket, sollevatrice di pesi. Per 6 mesi, negli anni Ottanta, l'avevano trasferita negli Stati Uniti, dove aveva dovuto subire un'impegnativa tournée per promuovere politiche in difesa della natura. Un bel paradosso, difendere la natura esibendo un animale che ha perso la sua libertà e la sua dimensione selvatica. Simbolo eco-friendly per eccellenza, Basi è l'emblema nazionale della Cina, al punto che il suo volto è stato anche impresso sulle monete. Con il cuore spezzato, scrivono i suoi proprietari e manager allo Straits Giant Panda Research and Exchange Center di Fuzhou, dove viveva nonna Basi come una reclusa, anche se di lusso, annunciamo che il modello originale di Pan Pan, la mascotte dei primi giochi asiatici e il nostro angelo dell'amicizia, il panda gigante Basi, è morta alle ore 8:50 del 13 settembre 2017 all'età di 37 anni. La vecchietta dagli occhi neri, il cui soprannome era Cutie, era anche considerata dea della longevità. Ogni anno portava allo zoo migliaia di persone e forse è proprio per questo che è stato fatto in modo che vivesse così a lungo. Ma noi vorremmo che i panda di tutto il mondo, tutti quelli che restano, potessero godere della libertà, che per essere tale non può altro che essere libertà di vivere e libertà di morire. You all the time. La notizia della settimana, oltre all'apertura della stagione venatoria, è senza dubbio l'invenzione dell'uovo sodo vegano. All'aspetto e le caratteristiche organolettiche di un uovo sodo di gallina, ma è interamente prodotto con ingredienti di origine vegetale. L'uovo vegano, 100° brevetto dell'Università di Udine, è il risultato di uno studio condotto da 4 studentesse del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Ateneo Friulano. Crescono quindi le energie e gli investimenti intorno a un'alimentazione che non implichi lo sfruttamento e la schiavitù degli altri animali. Ci sembra un buon segnale, a patto però che la discussione sul rapporto tra l'umano e il resto del vivente continui. L'accesso, infatti, a un uovo sodo vegano non cambierà una virgola dei rapporti di forza esistenti tra la specie umana e il resto del vivente, ma anche tra centro e periferia umana. Ed è invece proprio di questo che bisognerebbe cominciare a parlare, per il bene di tutti, l'unico bene davvero comune. Sostenere che lo sfruttamento degli altri animali è parte integrante dell'ideologia e della prassi di potere, per cui non ci deve stupire che anche gli umani non sfuggano al meccanismo di mercificazione e di sfruttamento, è uno scienziato, pensatore, filosofo antispecista, si chiama Massimo Filippi e ogni anno riesce, non si capisce bene come, a pubblicare un libro denso di riflessioni originali e importanti alle quali ogni persona che ha a cuore la libertà di tutti i viventi dovrebbe dedicare del tempo. Sentiamo il servizio a cura del nostro Lorenzo Guadagnucci. Siamo a Macao alla festa antispecista con Massimo Filippi, teorico dell'antispecismo, professore di neurologia al San Raffaele di Milano, autore di un nuovo libro, Questioni di specie, pubblicato dall'editore Eleutera. Partiamo dalla quarta di copertina, dove c'è la biografia di Massimo. Si legge così: professore ordinario di neurologia, è prima di tutto un altro animale che da anni si occupa di antispecismo da un punto di vista filosofico e politico. Un altro animale è una espressione inconsueta. Perché questa scelta? È una scelta di mettere in crisi certi sistemi di linguaggio che poi sono associati a una certa ideologia e a una serie di pratiche di smembramento dei corpi. Generalmente noi ci definiamo come umani e definiamo tutti gli altri animali appunto, quindi in qualche modo anche con questo linguaggio tendenzialmente politically correct noi rimaniamo al centro dell'universo e gli altri sono appunto altri animali. Nella biografia che tu citavi, ma poi nel libro stesso, si cerca anche di riprendere il linguaggio e provare a risignificarlo, e una delle operazioni anche questa è provare a definirci noi altri animali, che poi in realtà è quello che siamo, non siamo altro che altri animali. A leggere questo libro, che viene dopo altri lavori che hai fatto nel corso degli anni, sembra che ci sia uno sviluppo anche teorico, e tu fai una differenziazione fra 3 tipi di antispecismo, uno in successione rispetto all'altro. Il punto d'approdo è l'antispecismo del comune. Che concetto è questo, che suona anche nuovo? L'idea dell'antispecismo del comune è quello di superare l'idea che esiste un proprio dell'uomo, quindi che esiste una qualche caratteristica che sia tipica di tutti gli appartamenti alla nostra specie, sia completamente esclusa in tutte le altre, come è stato il nostro classico pensiero occidentale, per cui l'uomo è l'animale parlante, l'uomo è l'animale dotato di ragione, eccetera. Mettere in dubbio questo proprio dell'uomo credo che sia un passo per riconoscere appunto la comunanza della vita sensuale, che è appunto il fatto che tutti noi e gli animali siamo corpi finiti, vulnerabili, tuttavia capace anche di gioire e di soffrire, quindi è il tentativo di smarcarsi dall'idea che esista un proprio dell'uomo, quindi con tutti i meccanismi identitari, e nello stesso tempo anche di uscire dall'idea della differenza, no? Per cui ovviamente è un punto importante riconoscere che la differenza non si trasforma in gerarchia, ma il tentativo, come dire, di mettere ancora più a fuoco l'idea di un substrato comune della vita che percorre l'intero vivente animale. La tesi di fondo di questo libro è che la liberazione animale è un percorso politico che deve coinvolgere non solo quelli che sono tradizionalmente impegnati nelle lotte animaliste storiche che abbiamo conosciuto nel corso degli anni. E non ti viene il dubbio che questo libro sia più rivolto agli attivisti, chiamiamoli così, umanisti, impegnati nella politica nel senso più tradizionale, che non al mondo animalista? Hai perfettamente ragione, sì, lo scopo del libro è anche quello di da una parte riconoscere che il movimento animalista è giovane, spesso si è definito in maniera moralistica, si è isolato, non si è intersecato con altri movimenti di liberazione di più lungo corso e con una maggiore esperienza politica. Dall'altra però penso che l'antispecismo possa mostrare appunto delle sacche di antropocentrismo più o meno nascosto in molti altri movimenti di liberazione, e se è vero quello che abbiamo detto un minuto fa, che anche noi siamo animali, anche noi siamo corpi animali, e corpi animali sono tutti esposti allo stesso modo alla presa del potere e del dominio, quindi certamente uno degli scopi del libro è quello di parlare ad altri movimenti di liberazione al fine di far capire che la lotta per la liberazione animale non è un pensiero borghese per anime belle più o meno disturbate sentimentalmente, ma è parte integrante di una lotta politica di liberazione. Riusciamo a considerare il nostro mondo come relativo, non potremo mai costruire un pensiero controintuitivo. Intuitivo è credere che il sole, che tramonta a occidente e risorge a oriente, stia girando intorno alla Terra. Per costruire però un pensiero controintuitivo, devo pensare alla mia intuizione come a qualcosa di relativo, di perfettibile, di potenzialmente sbagliato, e devo essere capace di mettere quindi in discussione le mie certezze. Questo è un pensiero molto bello che ha espresso in una conferenza Roberto Marchesini. Tresini, un veterinario, etologo, filosofo, rifondatore del rapporto uomo-animale. Abbiamo scelto di proporvi questo pensiero, di partire da qui per introdurre un caso di convivenza uomo-animale che ci sembra un buon esempio di mescolamento delle certezze, quelle certezze che tendiamo ad avere riguardo al rapporto tra umani e altri animali. Vi raccontiamo infatti oggi un'eresia rispetto alle convenzioni, un'eresia che può già costituire però un pensiero controintuitivo, quindi una utopia concreta, un'anteprima di quello che sarà il giorno in cui crolleranno le gerarchie che l'uomo assegna al mondo animale, per cui ci sono da una parte i pets, gli animali da compagnia, assegnatari di diritti che nemmeno chiedono e di cui forse non hanno nemmeno bisogno, e i non pets, cioè tutti gli altri animali, animali da reddito, da allevamento, da lavoro, da sport, eccetera. Una massa indistinta che si vede negare anche i diritti più elementari e che deve essere emarginata in appositi luoghi concentrazionari. La storia di oggi è una convivenza normalissima e nello stesso tempo visionaria tra umano e maiale, che scompagina fortemente luoghi comuni e convenzioni. Sentiamo il servizio della nostra corrispondente Roberta Marino. Siamo venuti finalmente a trovarti a casa, Teodora, che ha dei nuovi amici. Ciao Arianna. Ciao. E questi nuovi amici chi sono e da dove arrivano? Allora, la Maggie ha un anno, l'abbiamo presa il 27 di dicembre, l'ha portata a Babbo Natale in ritardo. Abbiamo comprato questa casa qui apposta per prendere un compagno per il branco, la Teodora. Specifichiamo, la Teodora è una maiala... Maialina detti nani. Detti nani. Detti nani, perché per poi non lo è, perché insomma ha 70 kg tutti, però non vengono grossi come i nostrani, quelli degli allevamenti intensivi, ecco. Anche se mangiano anche questi qui, perché lei è stata salvata da un allevamento abusivo. Niente, vivevamo in una casa con un piccolo giardino, abbiamo deciso di comprare casa più grande. Lei aveva bisogno di più spazio e di compagnia, perché il suo branco eravamo noi e non era giusto. Abbiamo pensato di far trovare la Maggie qua prima di portarci la Teodora. Che così non era a casa sua già. Brava, ma non è servita a niente, perché la Teodora è diventata territoriale all'istante. Okay. E praticamente tramite una ragazza che fa volontariato a Iposi, e lei mi ha fatto sapere che a Iposi doveva arrivare una maialina, la Maggie, che è della stessa razza. Della stessa razza, e praticamente era stata regalata a una famiglia con una bambina, e poi questa famiglia ha deciso di darla via perché aveva paura che il maiale potesse mangiare la bambina. E quindi un ragazzo, sapendo che insomma in che condizioni poteva finire questa maialina qui in mani sbagliate, l'ha adottata, l'ha portata a casa sua. Lei viveva in un giardino abbastanza grosso, tipo questo qui, una casa con un altro cane, altre persone. È un pochino più selvaggia rispetto alla Teodora, che è vissuta con noi nel letto, da piccolina, nel divano. Teodora! Basta! E quindi niente, lui, questo ragazzo, aveva contattato i posi. E poi noi siamo andati là, abbiamo fatto i classici incontri come si fanno con i cani e i gatti, per vedere, insomma, se eravamo idonei. Sì. Ehi, gli fai male, piccino? Quindi niente, è arrivata e lei, ho fatto subito la superstar attaccando un paio di volte la Teodora. E la terza volta la Teodora ha tirato una nasata, perché la Maggie era un quarto di come è ora. Mm. Ha tirato una nasata, è volata 3 metri più in là. La Teodora praticamente, da che viveva in casa, la prima sera che siamo arrivati qui, le abbiamo fatto il giaciglio, non è mai più entrata in casa. L'altra casa stava sempre con voi in casa, adesso qua sta fuori. Sempre fuori, in 8 mesi sarà entrata in casa 10 volte, ma è entrata da una parte e uscita da quell'altra. Lei ha visto il giaciglio, le abbiamo fatto vedere che c'era il giaciglio, e lei la prima sera è andata a dormire subito lì. E invece la Maggie la prima notte ha dormito con noi, dormito per modo di dire, perché lei non dorme, lei si alza in continuazione. Poi ho viziato anche lei, naturalmente, perché io torno a casa alle 9 da lavoro, gli do sempre la mela, quindi lei, quando sente arrivare la macchina, si alza dal giaciglio, viene, gli do la mela, la mangia e poi torna a letto. Prima le abbiamo fatto 2 giacigli separati, e stavano separate perché la Teodora non ce la voleva. E poi dopo un paio di mesi le abbiamo trovate che dormivano insieme. Culo culo insieme. Ora abbiamo fatto il giaciglio anche a quello piccolino, si chiama Bebop, detto bambino, perché sembra un Bambi. Ora non tanto, ma quando è arrivato tutte le strisce, con questi occhioni, sembrava proprio un Bambi. E che ha quanto lui? Dice 4 mesi. Lui arriva dal solito allevamento da cui abbiamo preso la Teodora, che praticamente delle ragazze di Livorno che fanno un po' di attivismo sono andate lì e l'hanno fatto mettere sotto sequestro l'allevamento dove stava la Teodora, e in più l'hanno trovato un altro dove teneva anche questa cinghiala e la faceva accoppiare col maiale nano. Infatti lui è un incrocio, li faranno arrivare al massimo a 7-8 mesi, poi l'ammazzano. Con la Teodora ci facevano un maialino da latte, aveva 3 mesi. Ora la Maggie si è ingelosita, quindi io esco, dov'è Bebop? Arriva lei. E lui invece lo tenete anche in casa? Lui dorme nel letto con noi per ora, sì. Prima notte io non c'ero, c'era solamente Giacomo, e si è svegliato la notte che li ciucciava a capezzolo. La seconda notte a me li lobi delle orecchie, sì, gli manca la mamma tantissimo. Quindi sì, dorme con noi, appiccicato, zampe nel costato a Giacomo, schiena appiccicata a me, dove lo metti sta, fila sotto il divano e sta lì. Giorni ci è venuto spesso da dire: certo, settembre sarebbe un bel mese, però settembre sarebbe un bel mese è anche il titolo di un romanzo che neanche a dirlo parla della caccia. Un titolo azzeccato e anche attuale, perché in questi giorni chi di noi vive o frequenta le campagne e i boschi sa che domenica 17 settembre si è aperta la stagione venatoria 2017-2018, nonostante che la siccità e gli incendi abbiano distrutto gli habitat naturali degli animali, decimandoli o tra le fiamme o per scarsità di acqua e cibo. Mentre il mondo venatorio parla della caccia come di uno sport come un altro, la cronaca ci porta un altro volto violento della caccia, quello delle sue vittime umane. Il 10 settembre, infatti, prima ancora che la stagione venatoria avesse inizio, durante una battuta di caccia al Cervo in provincia di Trento, un cacciatore guardiacaccia è stato ucciso dal suo compagno di battuta. I due stavano sparando al buio in una zona interessata da pioggia e nebbia. Il primo giorno di apertura, invece, è morto un cacciatore di 51 anni in provincia di Palermo, ucciso da un amico che credeva di colpire un animale. A Vigo Rendena, in Trentino, un cacciatore di 71 anni è morto ucciso da un proiettile sparato da un fucile di un altro uomo di 53 durante una battuta di caccia. Sempre nel giorno di apertura della caccia, un altro cacciatore è rimasto ferito da un colpo di fucile partito accidentalmente. È successo a Pontevico, in provincia di Brescia. Un colpo ha colpito il cacciatore a un ginocchio, mentre un'altra cartuccia è finita contro la portiera di un'auto parcheggiata a poca distanza. Le condizioni dell'uomo però non sono gravi. Nel genovese invece un cacciatore di 69 anni è morto dopo essere precipitato in un burrone. L'uomo era uscito a caccia con alcuni amici nel primo giorno della stagione venatoria. L'associazione LAV, il 21 e il 22 ottobre, al grido di «è l'ora di smettere di spararle grosse», aprirà 100 tavoli in 100 città italiane per raccogliere firme a favore dell'abolizione della caccia. E dedicata alle vittime non umane della caccia è la ricetta che ci propone questa settimana il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Per la ricetta di oggi sono andato a scovare un antico legume selvatico umbro, purtroppo sconosciuto a molti. Dico purtroppo perché la rovea, questo è il suo nome scritto con la J e non con la I, ha un sapore unico e costituisce un buon apporto proteico. Oggi ve lo propongo nella sua veste più tradizionale, la rovea alla cacciatore. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di rovea essiccata, una cipolla, una carota, una costa di sedano, 200 g di pomodori pelati, un mazzetto di maggiorana fresca, un mazzetto di timo, un peperoncino, sale e pepe, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 4 fette di pane casereccio. La rovea è un legume selvatico della famiglia dei piselli. Con un po' di fortuna la si può reperire essiccata in qualche negozio ben fornito. Lasciate la rovea in ammollo per tutta la notte. Scolatela e sciacquatela, quindi fate lessare per 2 ore in acqua salata a fuoco lento. Nel frattempo tritate la cipolla, il sedano e la carota. Mettete il trito in un tegame assieme ad un mezzo bicchiere di acqua. Quando il liquido sarà completamente evaporato, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e fate rosolare per 5 minuti. Aggiungete la rovea cotta e ben scolata e dopo qualche minuto unite i pomodori pelati passati, la maggiorana ed il timo, il peperoncino e aggiustate di sale e pepe. Lasciate cuocere a fuoco lento fino a quando il pomodoro si sarà ritirato e la rovea si sarà ben insaporita. Servite calda con delle fette di pane casereccio abbrustolito. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, dagli ospiti Arianna e i suoi maiali e Massimo Filippi e da chi vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio, cioè Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la puntata numero 400 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.